GR24, il sole 24 ore. Raidi israeliani su Gaza e razzi di Hamas sul sud di Israele, morti e feriti. Voto anticipato, scontro Alfano-Bersani sull'Election Day. Il ministro Cancellieri difende la polizia dopo gli scontri di ieri. Legge di stabilità, sì dalla Commissione alla Camera, oggi il testo arriva in aula. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con GR24. In apertura torniamo in Medio Oriente, al confine tra Israele e la striscia di Gaza, dove volano i missili. Sentiamo la cronaca delle ultime ore. Dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, riunito d'urgenza nella notte, l'appello al cessate il fuoco. Ma gli scontri invece vanno avanti. I miliziani palestinesi hanno ripreso questa mattina a colpire con razzi le principali città israeliane nel sud. Nel crollo di un palazzo a Kiryat Malachi, almeno 3 persone, tra cui un bambino, hanno perso la vita. Sono almeno 15 invece le vittime dei raid israeliani, tra loro 2 bambini e una donna incinta, oltre 100 i feriti. La tensione resta dunque altissima al secondo giorno dell'operazione lanciata da Israele contro i gruppi armati nella striscia di Gaza e che ieri ha portato all'uccisione del capo militare di Hamas. Nel pomeriggio il Comitato Affari Esteri e Difesa della Knesset e il Parlamento israeliano discuterà il richiamo di unità di riserva per l'esercito, mentre in tutto il territorio la polizia ha elevato lo stato d'allerta per il timore di attentati. E intanto si moltiplicano gli appelli della comunità internazionale per un cessate il fuoco. Katia Caramelli, Radio 24, il Sole 24 Ore. E ora in diretta con l'inviato del Sole 24 Ore, Ugo Tramballi. Buongiorno Ugo. Buongiorno. Come spiegarsi questa ripresa di queste forti violenze tra la striscia di Gaza palestinese e Israele, Ugo? Beh, intanto la diplomazia è pesantemente al lavoro per cercare di evitare un'escalation di questo per ora piccolo conflitto, che sarebbe molto pericoloso per una regione già abbastanza tesa. Ma appunto il piccolo conflitto fra israeliani e palestinesi continua anche se non con la stessa violenza di 4 anni fa. Il ruolo fondamentale è quello dell'Egitto a questo punto, soprattutto come reagirà a questa piccola escalation del conflitto. Le ultimissime sono che i palestinesi di Hamas hanno lanciato da Gaza nuovi razzi contro le città più che lo riescono a raggiungere, cioè Beersheba ed Ashkelon, mentre gli israeliani continuano i bombardamenti. Ma anche su nel Golan, al confine con la Siria, si registrano colpi sporadici sparati dalla parte siriana, cioè dalla parte del regime di Assad. Io credo che la questione fondamentale di questa escalation, che è cominciata a Gaza, è stata cominciata dai palestinesi di Hamas col lancio dei razzi, sia un tentativo di trascinare Israele in questo grande conflitto medio orientale per far dimenticare che il problema è Bashar Assad o sono di Hezbollah o Hamas, ma il problema è, come sempre, tanto per come vecchia storia di Israele e dell'occupazione dei territori palestinesi. Grazie Ugo Tramballi per questa analisi. Ripetiamo la notizia che sono proseguiti anche questa mattina il lancio di razzi da parte di Hamas su Israele e i raid israeliani invece su Gaza. Ma chiudiamo questa pagina dedicata alla situazione incandescente nel Medio Oriente. Veniamo in Italia, parliamo di politica perché è scontro tra i due segretari del PDL Alfano e del PD Bersani sul voto anticipato e sulla possibilità di un election day. Allora facciamo il punto anche su questo con Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno, è ancora scontro sull'election day, proprio come hai detto tu. Il PDL minaccia la crisi di governo qualora il PD non arretrasse dalla richiesta di fare prima il voto in Lazio, Molise e Lombardia e poi quello delle politiche. Il segretario Angelino Alfano accusa il segretario PD di voler mettere una tassa di 100 milioni di euro sui cittadini, ma comunque Alfano aspetterà le decisioni del Consiglio dei Ministri. Sentiamo il segretario del PDL. Sulla crisi di governo molto dipende da Bersani. Se lui insiste a imporre una tassa da 100 milioni di euro, e cioè 200 miliardi di lire, per un suo capriccio, portando il paese a votare per le elezioni regionali 25-27 giorni prima della presentazione delle liste per le elezioni politiche. Noi non possiamo andare appresso a questo capriccio che coincide con una follia. Per il segretario PD Pierluigi Bersani invece il voto per le regionali e le politiche deve essere disgiunto come previsto dalla legge. Sentiamo Bersani. Esistono delle norme, delle leggi, le regioni devono andare a votare, inutile girarci attorno. Poi mi si parla di risparmi, lo sappiamo che la regione Lazio sta perdendo 650 milioni di euro di fondi europei, e che è da settembre che è in crisi questa regione. Ecco. Dopodiché, ripeto, se uno vuol considerare, non io, che rispetti in pieno le prerogative del Capo dello Stato, ma se uno vuol considerare in ipotesi il tema di anticipare le elezioni politiche, si preoccupi di fare una legge elettorale. Per Pier Ferdinando Casini, DC, se si sfasa la data del voto ci si prepara comunque a 5 mesi di campagna elettorale. Adesso il nodo, come abbiamo sentito da Bersani, sembra proprio quello della legge elettorale. Per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta, e intanto a proposito di elezioni regionali c'è una notizia che riguarda la corsa al dopo Formigoni. È una dichiarazione di Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, che ha detto di essere disponibile a candidarsi per il centrodestra. Dice però: se il PDL sosterrà un altro candidato, che penso sia Maroni, potrei anche restituire la tessera del PDL. Così Albertini oggi, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico all'Università Bocconi. Intanto il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri commenta le critiche alla gestione dell'ordine pubblico durante i cortei di ieri in riferimento alle immagini che hanno mostrato poliziotti colpire e manganellare alcuni manifestanti. Una foto, dice, è spesso l'effetto finale di qualcosa che magari si è svolto prima. Io potrei anche fare le foto del poliziotto che hanno spaccato il casco in testa, foto per foto. Parliamone, ha detto la Cancellieri, che ha poi ammesso che la situazione di ieri non era facile da gestire. Tutta Italia ieri bolliva, è facile dire le cose dopo, ma dobbiamo pensare che gli agenti hanno operato in condizioni difficili e complesse. Ancora le dichiarazioni del ministro Cancellieri. Intanto prosegue anche la diatriba politica sulle parole di Beppe Grillo dopo la guerriglia di ieri. Il punto di Stefano Folli. Fa un certo effetto ascoltare Beppe Grillo mentre fa un salto di qualità e passa dalle denunce del malaffare agli argomenti propri di un rivoluzionario. Invitare i poliziotti in servizio d'ordine pubblico a passare dall'altra parte, a togliersi il casco, abbandonare i manganelli e abbracciare gli studenti o cosiddetti tali che ieri hanno provocato gravi disordini nelle maggiori città, ebbene questo è un appello rivoluzionario. Niente di nuovo. Già i seguaci di Lenin nella Russia del 17 invitavano le truppe dello zar a unirsi agli insorti ed ebbero successo, come noto. Viceversa, uno scrittore che senza dubbio è noto a Grillo, Pierpaolo Pasolini, aveva scritto nel 68 una dura arringa contro gli studenti che picchiavano i poliziotti, perché vedeva in questi ultimi i veri figli del popolo. E qui sta la differenza. Si può giocare alla rivoluzione e Grillo, dall'alto dei sondaggi che lo premiano, ha tutto il diritto di farlo, anzi è un elemento di chiarezza. Oppure si può scegliere la strada della ricostruzione del paese con fatica, cercando di capire quali sono i veri interessi del popolo. E siamo all'economia con i dati economici di giornata che dicono che continua a frenare il PIL italiano, ma anche quello di molti paesi europei. Il vecchio continente affronta con la crudezza dei dati la propria incapacità a reagire alla crisi. La rilevazione del prodotto interno lordo è chiara. Per l'Italia il calo è dello 0,2% congiunturale e del 2,4% annuale. Il dato acquisito per l'anno in corso, se quindi l'ultimo trimestre non portasse con sé sorprese, sarebbe un -2% tondo tondo. Si tratta del quinto trimestre in rosso, però, tenendo conto della valle di lacrime in cui siamo, è il rosso meno marcato rispetto ai trimestri precedenti. Dunque la caduta è sempre tale, ma meno rovinosa. Anche la Spagna ci fa compagnia, ancora in recessione nel terzo trimestre, anche qui il quinto consecutivo. Che l'eurozona sia debole viene confermato anche dal dato complessivo, un -0,1% che porta ufficialmente l'Europa a 17 in recessione. Crescita piatta per il Belgio, negativa per Austria e Olanda. Questa volta non basta la Germania, che mostra stanchezza. Il PIL tedesco cresce, ma a un ritmo più lento. I numeri possono cambiare da mese a mese, vero, ma anche dall'indagine periodica che la BCE conduce tra gli economisti di istituzioni private, non filtra ottimismo. Peggiorate le stime su crescita e disoccupazione. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi a Milano una presenza importante, quella del governatore della Banca Centrale Mario Draghi, assieme al presidente del Consiglio Mario Monti, per l'inaugurazione dell'anno accademico della Bocconi. Andiamo a sentire che cosa stanno dicendo con la nostra Anna Marino. Buongiorno Anna. Sì, buongiorno Alessio. Si è appena conclusa l'inaugurazione, ancora giovane crisi, appunto all'inaugurazione dell'anno accademico 2012-2013 dell'Università Bocconi. È intervenuto il presidente della BCE Mario Draghi, parlando della situazione economica attuale, ha fatto un bilancio dell'anno che sta per terminare, indicando una strada. Sentiamo. È importante capire che la stabilità finanziaria all'interno dell'area dell'euro è nell'interesse di tutti, ma in primis dei paesi creditori che hanno le esposizioni maggiori. Quanto maggiore la sfiducia, tanto più sono i flussi di capitale che vanno verso alcuni, un paese in particolare, ma insomma i paesi che sono maggiormente creditori. In questo modo tanto più aumenta la loro esposizione nei confronti degli altri paesi. Questi sono rischi, ma diventano certezze nel caso di frattura dell'area dell'euro. Diventano vere perdite. Quindi l'assicurare la stabilità finanziaria è in primis nell'interesse dei paesi creditori. Certamente è importante, auspica l'Unione Politica Europea, ribadisce l'irreversibilità dell'euro e la necessità di un intervento della BCE, ma sul fronte di tutti i governi appunto che prendono misure economiche, l'attività economica continua però a indebolirsi, ha segnalato, e gli spread a crescere. L'evidenza è prevalente secondo gli studi economici e ha detto che il costo dell'aumento deve essere basato sul calo della spesa corrente e non sull'aumento delle tasse. Per questo Draghi dice spetta ai governi uno sforzo di credibilità. A sorpresa intervenuto anche il presidente del Consiglio Mario Monti, che ha espresso appunto si era allegrato per il premio intitolato a Tommaso Padoa-Schioppa, la visiting professorship assegnata quest'anno ad Alberto Alesina, ma anche ha parlato di università. Sono convinto, ha detto, che pur in una fase di difficoltà affrontata dal paese in questo anno, il governo si è concentrato su formazione e ricerca e sul futuro del paese e sul suo sviluppo, e poi ha aggiunto che la giornata di oggi dedicata alla ricerca e alla formazione ci dà il segnale dell'attenzione al governo a questi temi. E infine ha chiuso sui giovani: è la prima volta che un rappresentante degli studenti siede un'inaugurazione ed è stata l'occasione per dire dobbiamo contare sul contributo dei giovani, dobbiamo metterli in condizione di dare il loro contributo, dobbiamo capire che sono irriverenti rispetto a ciò che il sistema gli ha riservato nel passato, ma ha finito, contiamo che diano all'Italia anche di più di quanto le dissipazioni del passato consentono di dare loro oggi. E per ora è tutto. Grazie anche a Anna Marino. E allora sin qua i numeri, quelli della decrescita del PIL italiano e europeo, e le dichiarazioni, quelle di Monti e di Draghi, sul piano degli strumenti dell'azione di governo. C'è da segnalare il passaggio alla Commissione Bilancio della Camera della legge di stabilità. Una seduta fiume terminata quasi all'alba e segnata da un lungo braccio di ferro tra governo e maggioranza. L'esecutivo è andato sotto su due emendamenti sui quali aveva espresso parere negativo. Il primo stanzia 250 milioni in favore dei comuni e delle regioni colpite dall'alluvione di questi giorni. Il secondo riguarda il comparto sicurezza, con la possibilità di assunzioni in deroga al blocco del turnover per una spesa complessiva di 100 milioni. Le divergenze su questi punti hanno portato nella notte a sospendere la seduta, ma alla fine la Commissione ha dato via libera ai due emendamenti. Altra questione aperta era quella delle pensioni di guerra reversibili. La legge di stabilità abroga la loro rivalutazione se il reddito supera i 15.000 euro. La maggioranza avrebbe voluto cancellare la misura, ma il governo si è impegnato a risolvere il problema durante il passaggio della legge in Senato, così come a modificare sempre in Senato la Tobin Tax. Riscritta infine la parte fiscale, e dunque restano invariate le aliquote IRPEF, mentre aumentano nel 2013 le detrazioni dei figli a carico. Da luglio 2013 si innalzerà l'aliquota IVA dal 21 al 22%, mentre non cambierà quella del 10. Dal 2014 infine ci sarà anche un taglio al cuneo fiscale per circa 1,4 miliardi di euro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E andiamo sui mercati finanziari a vedere a metà giornata come stanno andando le cose. Ritroviamo Deborah Rosciani. Deborah. Sì, e ritroviamo anche il segno meno sui listini del vecchio continente, che ritorna anche questa mattina seduta all'insegna dei cali. Probabilmente il mercato europeo oggi è influenzato da quello che è successo ieri sera a Wall Street. Il mercato americano ha chiuso negativamente, meno 1,5% per il Dow Jones, un mercato americano che aspetta che il congresso statunitense inizi a discutere di come gestire il fiscal cliff, l'imminente precipitazione precipizio fiscale. Ci sono appunto dati macroeconomici che non convincono. Da quando è stato eletto Barack Obama, il mercato americano ha perso più del 5% dal 6 novembre dunque. L'Europa male, oggi Milano perde lo 0,49% sul FTSE MIB, Francoforte meno 0,89%, quindi la peggior piazza d'Europa, Parigi meno 0,41%, Londra meno 0,36%. Questi i dati. A Milano vengono premiati i titoli di Assorin, più 2, che beneficia di una serie di giudizi positivi di diverse case di investimento, Impregilo più 2, Fiat più 1,20%. In negativo abbiamo Autogrill che perde 3 punti percentuali, Saipem meno 2,5 punti, Campari meno 2,36. L'euro sul dollaro a 1,2758. Per quello che riguarda lo spread fra BTP e Bund, siamo orientati ancora intorno ai 360 punti base. È tutto. Grazie Deborah Rosciani. Oggi, come avete sentito nelle edizioni di GR24, Radio Day dedicato agli stati generali della cultura. Radio 24 Day. Un appuntamento importante, l'abbiamo seguito in tutte le edizioni di GR24, lo seguiremo anche a partire dalle 13.30 con un approfondimento speciale. In Italia in controluce, le interviste di Adriana Fracchi. Adriana, raccontaci cosa accade oggi. Sì, come appunto hai detto tu, oggi è il giorno degli Stati Generali della Cultura, un appuntamento che ricordiamo è organizzato dal Sole 24 Ore, dell'Accademia Nazionale dei Lincei e dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani. Questo incontro cerca di fare il punto e lanciare il dibattito suscitato dal Manifesto della Cultura, sottoposto all'attenzione del pubblico il 19 febbraio scorso sul supplemento domenicale del Sole 24 Ore, e in questa sede il direttore Roberto Napoletano presenta l'Indice 24, un'analisi tecnico-economica accompagnata da una proposta concreta in 4 punti e già anticipata in parte sulla copertina di domenica scorsa da Pierluigi Sacco. Tutto questo alla presenza del capo dello Stato Napolitano, che ha appena concluso il suo intervento, e di ben 4 ministri, Barca, Ornaghi, Profumo e Passera. I quesiti: quanto e come si spende per la cultura, quali possono essere i meccanismi virtuosi dell'industria culturale, quanto conta il rapporto pubblico-privato nel rilancio del patrimonio, perché la politica è stata finora così poco lungimirante e incapace di guardare lontano. Sono questi appunto alcuni dei quesiti cui si cercherà oggi di dare una risposta in un momento in cui la cultura continua a rappresentare un'emergenza dimenticata del nostro paese. Come ricordavi tu, Alessio, continueremo a parlarvene in Italia in controluce subito dopo questo notiziario. Grazie Adriana, appuntamento dunque alle 13.30 agli Stati Generali della Cultura. E adesso riprendiamo dall'estero, perché parliamo del caso del generale Petraeus. Non ci sono indicazioni che abbia messo a rischio la sicurezza nazionale. Sì, Barack Obama, nella prima conferenza stampa dalla rielezione alla Casa Bianca, ha cercato di rassicurare l'opinione pubblica americana sullo scandalo che ha scosso i vertici dei servizi segreti e delle forze armate americane, costato l'incarico al direttore della CIA David Petraeus. Obama ha affermato che le indagini faranno il loro corso e la Casa Bianca non interferirà, ma ha ricordato che l'ex generale si è dimesso perché non ha rispettato i suoi stessi standard etici, una relazione extraconiugale, e che questo non deve far dimenticare i suoi meriti. Siamo tutti più sicuri grazie al suo lavoro, ha ricordato il presidente. Obama, che ha anche auspicato accordi sulla riduzione del debito con l'opposizione, ha risposto seccamente alle critiche rivolte dai repubblicani alla sua amministrazione sulla gestione della tragedia di Bengasi. Ha difeso l'ambasciatore all'ONU Susan Rice da accuse di un cover-up dopo l'assalto terroristico costato la vita a 4 funzionari statunitensi in Libia. Proprio Petraeus, nonostante le dimissioni, ha accettato di testimoniare oggi al Senato sul caso Bengasi. Marco Valsania, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Dall'America alla Cina, per vedere che cosa sta emergendo dal congresso del Partito Comunista Cinese in corso a Pechino. La grande transizione nelle stanze segrete del potere cinese è terminata. Da oggi Pechino ha un nuovo leader massimo, il 59enne Xi Jinping, che guiderà una ristretta squadra di uomini destinata a governare il paese per i prossimi 10 anni. Visto il meccanismo contorto e imperscrutabile che ha disciplinato il cambio di leadership nel Partito Comunista, una domanda è d'obbligo. Se i nuovi membri dell'elite rossa sono stati nominati dai loro stessi predecessori, senza uno straccio di investitura democratica e popolare, cosa cambierà davvero nella vita della superpotenza asiatica? Naufragati i grandi programmi riformisti annunciati e mai realizzati dal governo uscente, la lista delle cose da fare per i nuovi arrivati è molto lunga e composita. Sul piano economico Pechino dovrà affrontare tre grandi sfide: ripensare il vecchio paradigma di sviluppo, riformare il sistema finanziario in vista della piena convertibilità dello yuan, rompere i monopoli pubblici per liberare maggiori risorse a favore del settore privato. Ma è sul piano politico che il nuovo governo dovrà muoversi come se procedesse su un autentico campo minato. Esaurita l'epopea del grande miracolo economico, infatti, il modello basato sulla centralità del partito unico, escogitato da Deng Xiaoping negli anni Ottanta, mostra sempre più la corda. E i recenti scandali che hanno travolto la nomenclatura, alzando il velo su una corruzione profonda ed endemica, hanno complicato notevolmente le cose, rendendo più urgente una metamorfosi del partito. Un fatto sembra chiaro: mentre Xi Jinping promette che la nuova classe dirigente continuerà a servire il popolo, il grado di scontento, disgusto e disincanto raggiunto nel paese nei confronti di una leadership della legittimità incerta è ormai prossimo al livello di guardia. In questo quadro, per la nuova classe dirigente cinese, cambiare le regole del gioco potrebbe diventare una questione di sopravvivenza. Luca Vinciguerra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Pechino. E rientriamo in Italia per parlare delle condizioni meteo, con una nuova allerta della Protezione Civile per le forti piogge che questa volta sono attese al mezzogiorno. Il tenente colonnello della Protezione Civile, Gianfranco Proia. C'è una perturbazione che stava viaggiando sull'Africa, adesso si è portato sullo stretto di Sicilia e successivamente si porterà sullo Ionio. Questa perturbazione interesserà in modo particolare la Sicilia e le zone ioniche di Calabria e Basilicata e successivamente anche la Puglia. Questo tipo di situazione permarrà per oggi e per domani, e poi da dopodomani è previsto un miglioramento. Si prevedono dei temporali in modo particolare ed eventi, diciamo, nelle aree temporalesche e mareggiate lungo le coste. Ed è tutto per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Pietro La Corte in regia, vi augurano buona giornata, vi lasciamo intanto al GR Spettacoli. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola. A Roma ieri il giorno della vera star di questo festival internazionale del film. Applausi per il suo film Bullet to the Head, diretto da Walter Hill. Applausi per lui, Sylvester Stallone, che in conferenza stampa ha subito voluto lanciare un appello. Over here you have one of the greatest institutions of all time, which is Cinecittà. Qui avete una delle istituzioni più grandi al mondo, Cinecittà. Mi auguro che voi chiamate il cinema e il vostro governo salvaguardiate questo luogo, perché torni ad essere più grande che mai. Il suo Nessuna qualità agli eroi fu massacrato alla Mostra di Venezia del 2008. Per Paolo Franchi, a Roma, ancora contestazioni e polemiche. Risate e fischi per E la chiamano estate, una storia di amore vissuto senza sesso da una donna e un uomo vorace ma con le altre. Ma il regista Paolo Franchi si è difeso contrattaccando. No, non sono amareggiato. Sono amareggiato non per me stesso, sono amareggiato per l'Italia, ma non per me, perché il mio film può piacere o meno, ma lo trovo una forma proprio, come dire, di inciviltà, fine, però che dire, è stata una bellissima esperienza e sinceramente continuo ad esserlo, non è che mi aspettassi, cioè io oramai so com'è questo paese. E la protagonista Isabella Ferrari ha rincarato. Così, non so, è una cosa che non mi piace più, non mi è mai piaciuta, non mi sembra giusto, mi sembra così di poco rispetto per gli artisti, forse qui anche tra l'altro c'entra molto anche un fatto politico in questo Festival di Roma, lo sento un po' trattato male, questo povero festival. In realtà abbiamo bisogno di feste, abbiamo bisogno di parlare di cinema, abbiamo bisogno di produrlo, siamo alla frutta, siamo arrivati talmente al capolinea con tutto che così, insomma. Non so veramente cosa dire di più rispetto a questo. In concorso a Roma, Spose Celesti dei Mari della Pianura di Alexei Fyodorchenko, rivelazione di Venezia 2010 con Silent Souls. Allora raccontava la cultura Meria, antica tribù ugrofinnica del Lago Nero, oggi la popolazione Mari, una delle ultime civiltà pagane in Russia. Несколько отличался, потому что одного один народ жив, а второй мертв. Вот все равно, что снимать фильм о живом человеке и фильм о давно умершем человеке. В этом вся разница. La differenza principale è che in un caso, nel primo caso, il film precedente, si trattava di un popolo morto e in questo caso si tratta di un popolo vivo, e quindi è come fare un film su una persona morta e un film su una persona viva. И вообще основной своей заслугой я считаю, что то, что в Европе узнали два новых слова, это «Тамари» и «Мири». Io considero uno dei miei meriti forse principali è che ho fatto conoscere due parole nuove in Europa, la parola Mera e la parola Mari. E al Festival Internazionale del Film di Roma, Blitz di Greenpeace, che ha proiettato sulla cupola centrale dell'auditorium di Renzo Piano il cortometraggio Uno al giorno, in cui attacca la produzione elettrica da carbone di Enel. L'azienda aveva chiesto all'associazione di ritirare il cortometraggio girato da Mimmo Calopresti. E per la seconda edizione del GR Spettacoli è tutto. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.